però immensamente felice per tutti coloro che sono qui per la prima volta, che hanno accolto un invito e sono venuti a questa celebrazione. Lo vogliamo fare un bel applauso a chi ha scelto di andare oltre l'imbarazzo, la timidezza o anche semplicemente la sfida di entrare in un luogo che non si conosce. E io voglio darti il benvenuto, sei il benvenuto a casa. Quello che faremo è riflettere un attimino sul festeggiato di questa festa, perché se c'è qualcosa di buono di queste feste, della festa del Natale, è che ci dà l'occasione di poter riflettere un attimino su chi è il festeggiato. Ed è assurdo che ci sono persone che vogliono rimuovere Gesù dalla festa e non vogliono che sia nominato, ma per noi Cristo Gesù non può non essere nominato, né a Natale né per il resto dell'anno, perché Lui ha cambiato le nostre vite. Non possiamo fare a meno di nominare quel nome che ha trasformato per sempre la nostra storia, il nome di Cristo Gesù. E non so se ti sei mai chiesto chi è veramente Gesù, perché Gesù può suonare come un nome religioso quale molti altri, quale Buddha, Maometto, non lo so. Forse per te il nome Gesù evoca un sacco di preconcetti, di immagini costruite nel tempo che qualcun altro ha costruito nel tuo immaginario, e hai un preconcetto di Gesù, lo abbini alla religiosità, lo abbini a quelle preghiere magari anche un po' scaramantiche che si fanno nel momento di difficoltà, no? Gesù è il nome da nominare, da citare quando siamo in difficoltà, in sofferenza o in malattia. E a volte anche noi cristiani, anche noi credenti, anche noi che ci diciamo discepoli di Cristo, ci limitiamo a nominare Gesù quando ne abbiamo estremo bisogno. Ma Gesù chi è? Te lo sei mai chiesto? E noi abbiamo da subito l'identità di Cristo Gesù presentata a ciascuno di noi proprio nell'annuncio della sua nascita. Durante il sogno che Giuseppe, il padre di Gesù, il padre terreno, ha avuto, un angelo ha parlato a Giuseppe. E leggiamo insieme cosa dice Matteo al capitolo 1 dal versetto 23. E l'angelo che parla a Giuseppe le dice, gli ricorda, per meglio dire, un verso che si trova in Isaia. Parole che sono state date a un profeta secoli prima che Gesù nascesse, e questo profeta, il profeta Isaia, aveva già preannunciato che la Vergine sarebbe rimasta incinta e avrebbe partorito un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele. E l'angelo, parlando a Giuseppe in sogno, gli dice queste parole: a questo figlio sarà posto nome Emanuele. Quel Gesù che noi conosciamo con i diversi nomi, Gesù, Cristo, Messia, e anche Emanuele. Questo nome è importantissimo perché è questo nome che ci rivela da subito chi è Gesù. E l'evangelista Matteo aggiunge e scrive che è tradotto, perché vuole che a nessuno sfugga la traduzione, il significato del nome Emanuele, che tradotto, scrive, vuol dire Dio con noi. Possiamo dirlo insieme? Dio con noi. Ancora una volta, Dio. Questo è Gesù. Gesù è Dio. Gesù è Dio, non un profeta, non un buon insegnante, non un rivoluzionario, non una persona straordinaria che ha spaccato la storia a metà. No, no, è Dio, Gesù è Dio, l'Onnipotente, colui che ha creato ogni cosa. Colui nelle mani del quale regge l'universo, tutte le leggi della matematica, della fisica, dell'astronomia, tutta la scienza che noi oggi conosciamo. Dopo secoli e a volte millenni di ricerche, Lui le conosceva prima di noi, e non solo le conosceva, è Lui che le ha stabilite. il nostro corpo straordinario che ancora riserva dei misteri. Come funziona il nostro cervello, come funzionano alcune parti del nostro corpo, ancora si sta cercando e ricercando e studiando per scoprire i misteri della vita. Beh, Gesù li conosce, perché è Gesù che ha creato i nostri corpi. Lui era prima che nascesse. Gesù è il Dio eterno. Lui era prima di ogni cosa e ogni cosa è stata creata per mezzo di Lui e in vista di Lui. Gesù è Dio. Gesù è Dio. Non solo è Dio, è con noi. È Dio che si è fatto uomo. Noi uomini cerchiamo di voler essere Dio, nel nostro orgoglio, nella nostra arroganza, ci gonfiamo ad essere degli dèi della nostra storia, della nostra vita, del nostro mondo e falliamo. Dio nella sua straordinaria natura, nella sua eccellenza, eccelso quale Lui è, fa una cosa molto diversa, invertisce quello che è il nostro modo di pensare. Noi cerchiamo di elevarci e Lui invece cerca di abbassarsi per arrivare a noi. E quindi Gesù è Dio, ma è uomo, che si fa uomo, è con noi. Una sera, mentre cercavo di far addormentare mia figlia, che è un duro lavoro, questo è il momento bellissimo della giornata dove mia figlia diventa particolarmente loquace. Già normalmente lo è femminuccia, non le mancano le parole, però proprio perché non vuole addormentarsi comincia a parlare e parla, e io approfitto per fare delle domande. Una sera ho domandato a mia figlia: ma Gesù dov'è? E lei mi ha risposto così: Gesù, perché gliel'abbiamo insegnato, è nel mio cuore ed è nel cuore di mamma ed è nel cuore di papà ed è nel cuore di Amedeo. Amedeo è mio figlio piccolo di 6 mesi, e lì si è fermata, però vedevo che ragionava e ha riformulato il tutto e ha detto: Gesù è nel cuore di Ioanna, è nel cuore di mamma, è nel cuore di papà, e Gesù è piccolo nel cuore di Amedeo. Forse perché ha pensato: no, Gesù non può essere grande quanto è grande nel cuore di Mirko, di papà. Deve farsi a misura di Amedeo, che è così piccolo. E allora io ho sorriso, però poi ho riflettuto, perché c'è una verità in questo. Gesù è grande, è infinito, è Dio, eppure si è fatto piccolo a misura nostra, si è fatto uomo come noi. Ma non solo, poteva venire quale uomo maturo, invece nasce quale neonato in una mangiatoia. Non è straordinario? Ci dice tutto del nostro Dio, ci dice quanto il nostro Dio è umile, quanto il nostro Dio è amorevole, quanto il nostro Dio è desideroso di starci così vicino e conoscerci da farsi piccolo, neonato e crescere in mezzo a noi. Questo è Gesù, Dio con noi, Dio sì, ma uomo, infinitamente grande, ma capace di farsi straordinariamente piccolo. È l'Eterno, l'Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, ma dall'altra parte è umile, approcciabile ed è vicino. È perfetto. Dio è perfetto, Gesù è perfetto, è giusto, è santo. Eppure, dall'altra parte è misericordioso, è paziente, è stato in mezzo a noi peccatori imperfetti. Tutto della nascita di Gesù ci parla dell'empatia del nostro Dio, del suo cuore per noi, della sua vicinanza. Io voglio darti conforto questa mattina, perché questo messaggio è confortevole. Dio è con noi, Dio è con te. Dio si fa piccolo e magari tu pensi, ma questa situazione non può interessare Dio, Dio è lì, lassù, nel cielo, che regge l'universo, che fa funzionare il tutto, come può essere interessato a questa mia situazione, a questo mio problema? No, no, Dio è vicino, Lui è interessato. In quelle che sono delle festività che gridano che sei solo, che molto spesso le festività ci ricordano solo quanto siamo soli, in modo particolare se qualcuno ha perso una persona cara. E questo è il periodo nell'anno dove quel vuoto si fa ancora più sentire e c'è maggiore sofferenza. E la festa grida, sei solo, sei sola. Quando la festa grida questo, il festeggiato dice, no, io sono con te. Io sono vicino, io sono Dio con voi. E quando i tuoi peccati gridano che non sei degno, quando i tuoi fallimenti ti ricordano che non potresti mai approcciarti a questo Dio santo, la parola di Dio ci dice che Gesù è quel sommo sacerdote, sì, però che simpatizza con noi, simpatizza con noi, sin pathos, prova quello che noi proviamo, sa quello che noi viviamo, conosce le nostre debolezze, conosce la nostra fragilità, perché Lui è stato tentato come noi senza peccare, però, e ha trionfato sul peccato, e quindi ti capisce, ma al tempo stesso ha la forza di tirarti su e liberarti. Non è la simpatia, è la comprensione che puoi avere da un tuo simile, da un'amica, da un amico, da un familiare, è la simpatia di Dio, che rimane Dio, che è santo, che è perfetto, che è vincitore, che trionfa sul peccato, che però si è fatto uomo e comprende la tua tentazione. Dio con noi. Isaia 9 al versetto 5, abbiamo cantato, dice questo il profeta: poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Guardate la prospettiva diversa. Un figlio ci è nato è la prospettiva terrena, quella che vediamo noi dal basso. Un figlio ci è nato. Dalla prospettiva celeste invece è un figlio che ci è stato dato. E il dominio, dice il profeta, riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Se tutti festeggiano un bambino che è nato, l'invito di oggi da parte di Dio è che cogliamo la prospettiva dall'alto. Che non solo un bambino è nato, ma che un figlio ci è stato dato. E c'è un verso che tutti conosciamo molto bene a memoria, che ci ricorda questo dono, il valore di questo dono e quanto questo dono manifesta l'amore di Dio per il mondo. In Giovanni 3,16 noi leggiamo: Dio ha tanto amato il mondo che, aiutatemi, ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque creda in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio si fa piccolo, finito, uomo, per abbassarsi al livello di uomini peccatori, finiti, disperati. Lui si fa piccolo per elevare l'uomo a vita eterna. E qui noi leggiamo nel verso di Giovanni 3,16 lo scopo per il quale Gesù è nato. Perché Gesù non è nato per essere festeggiato una volta all'anno. Gesù è nato per salvare chi era perduto. Non lo so se sto parlando al tuo cuore in questo momento, ma credo che alcuni mi stanno ascoltando. Stanno ascoltando queste parole come nuove, mai sentite. E allora, per te che mi stai ascoltando e stai valutando e considerando queste parole, sappi che non tanto io ti dico questo, ma è Dio stesso che ti dice: io voglio salvarti. Io sono venuto per salvarti, e la cosa migliore che puoi fare in questo Natale non è tanto festeggiarmi con cene, luci, mercatini e uscite, niente di male in tutto questo, ma la cosa migliore che tu puoi fare per festeggiare in maniera appropriata questo Natale è accogliermi nel tuo cuore e ricevere salvezza. Quel bambino che è nato nella mangiatoia è venuto per diventare quell'uomo che è stato poi appeso a una croce. Qualcuno direbbe: Gesù è venuto per perdonare i nostri peccati, ma è riduttivo, non è venuto per perdonare solamente i nostri peccati. Lui ha fatto qualcosa di molto più grande. Lui è venuto per espiare il nostro peccato. Vedete, il perdono dice: non te la faccio pagare, non te la faccio pagare. L'espiazione invece dice: pago io al posto tuo. E quando una colpa è grave, c'è una conseguenza da pagare. E il nostro peccato è grave, è infinito, crea una voragine nella relazione nostra con il nostro creatore Dio. E Gesù viene per riempire quel vuoto e dire: io non solo vengo a perdonare, perché sorvolerei sulla gravità del peccato, ridurrei la gravità della tua ribellione a qualcosa di sorvolabile. No, io vengo e pago le conseguenze del tuo peccato. Perché ci sono delle colpe da pagare, ci sono delle conseguenze che vanno punite, che prevedono una punizione, per meglio dire. E il mio e il tuo peccato prevede una punizione. E chi lo sta pagando? La verità è che o un giorno la pagherai tu, oppure oggi scegli di ricevere l'espiazione da quel Cristo che ha pagato per te. Vogliamo alzarci in piedi. Questa mattina so che il Signore ci ha portato in questo luogo per una ragione. In questi pochi minuti ho voluto condividere il motivo per il quale Gesù è nato. Può sembrare poco, ma la verità è questa: che tu sei distante da Dio una sola preghiera fatta col cuore, una sola preghiera nella quale ammetti che sei un peccatore, che sei piccolo, che sei finito, che sei uomo e che hai bisogno della salvezza eterna. Che non sei Dio, che non puoi tu guidare la tua vita in autonomia, che la tua ribellione ti ha portato dove ti trovi oggi. E se ancora non hai sbattuto la testa contro un muro in un vicolo cieco, prima o poi lo farai. Perché? Perché sei uomo. Perché siamo uomini. Prima o poi comprenderai quanto sei finito e quanto sei disperato. In quel giorno forse sarai più propenso a ricevere la salvezza, ma forse questo è il giorno nel quale molti decidono di ricevere l'espiazione dei propri peccati, riconoscendo che Gesù ha portato ogni propria colpa su quella croce. Allora io voglio pregare proprio per queste persone. Voglio pregare affinché tu possa ricevere salvezza, affinché tu possa essere elevato ad una vita benedetta in connessione con il tuo Creatore. Sei distante da Lui, una sola preghiera, io voglio guidarti a farla. Mentre abbiamo i nostri occhi chiusi, invito tutti noi a chiudere i nostri occhi e abbassare il nostro capo. Io voglio invitare tutti coloro che dicono sì, io voglio salvezza, io voglio che i miei peccati siano espiati, io voglio ricevere libertà dall'oppressione che vivo, io voglio essere salvato, io voglio essere proiettato all'eternità, io non voglio una religione, io voglio una relazione con il mio Creatore, io voglio ritrovare me stesso in colui che mi ha creato. Se sei qui e desideri questo, ti chiedo, mentre abbiamo i nostri occhi chiusi, di alzare la tua mano dove ti trovi, e voglio pregare per chiunque sta alzando la propria mano in questo luogo. Grazie, grazie, grazie, grazie. Vedo tante mani che si stanno alzando, e sapete, non è tanto il gesto di alzare la propria mano che ci salva, ma è il cuore che si arrende al nostro Salvatore Gesù. C'è qualcun altro che dice: io mi arrendo a te, io riconosco le mie colpe, io riconosco che sono un peccatore, io riconosco che ho bisogno di un Salvatore. Grazie, quante mani che sono alte in questo luogo. Nella tua disperazione io ti ricordo questa mattina che Dio ti vede, Lui è con te. E Lui è con te per salvarti, per rialzarti. E allora vogliamo pregare insieme. Grazie per tutte queste mani che si sono alzate. Le potete abbassare. Se hai alzato la tua mano, ripeti dopo di me, lo faremo tutti insieme. Questa preghiera che vi guido a fare, ma che sia tua, che sia fatta col cuore. Ripeti col cuore, dopo di me: Signore Gesù, Dio con noi, Emanuele, salva la mia vita, perdona i miei peccati, accoglimi nella tua grazia. Io prego che sia libero da ogni conseguenza del peccato, che io possa camminare in libertà, che io possa camminare nella vita seguendo te e arreso a te, Gesù. Amen. Grazie Padre, grazie per questo tempo. Grazie per queste decisioni, grazie per il tuo amore. Gesù, sei meraviglioso. Ti adoriamo quale Dio. Ti sentiamo vicino quale fratello. Ti innalziamo quale onnipotente. Ma ci stringiamo a te quale amico. Prego di dare conforto a tutti coloro che hanno sconforto, che stanno vivendo un tempo difficile. Voglio pregarti per chi sta vivendo delle feste, si approccia a delle feste che gli ricordano ciò che ha perduto, ciò che non c'è più. Padre, io prego e intercedo per loro, perché qualsiasi cosa loro abbiano perso, tu sei con loro per colmare ogni vuoto, e io ti prego di farlo. Colma il vuoto dei nostri cuori. Vieni ad abitare dentro di noi. Sii al centro di queste feste. Sii onorato, sii esaltato dalla tua Chiesa, dal tuo popolo e da tutti coloro che questa mattina si sono aggiunti tra i salvati, tra i redenti. Alleluia. Amen.